grazie perché mi eri vicina ancora prima di esser mia, e perché vuoi un uomo amico, non uno scudo vicino a te. Grazie che vai per la tua strada piena di sassi come la mia. Grazie perché anche lontano tendo la mano e trovo la tua. Io come te paura solo con te. Grazie perché anche lontano tendo la mano e trovo la tua.